Avventurieri, perché non vi fermate un attimo per capire dove andare? Magari uno degli strumenti che avete con voi può aiutarvi a fare mente locale.